L'indizio dice: se un numero diviso per 2 non lascia resto, il tasto corrispondente è da schiacciare. Altrimenti, se lascia un resto diverso da 0, non va premuto. Quale tipologia di numeri, se divisa per 2, non lascia resto?